La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, questo mercoledì 20 luglio, qui dagli studi di Milano di Radio 24. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia come sempre per l'ascolto in diretta o in podcast. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. E vi dice che anche la trasmissione di oggi nasce da uno stimolo di alcuni di voi. Io ero un po' perplesso, a dire la verità, perché mi sono arrivate numerose lettere nel corso della vicenda. La vicenda è il cambio di proprietà del gruppo Rizzoli Corriere della Sera. Io sono dell'idea di solito che i giornalisti tendono già a sopravvalutare l'importanza del proprio mondo, delle proprie vicende, cioè sono autoreferenziali. Però molti di voi nel tempo, quando si fece avanti candidandosi a rilevare il gruppo Urbano Cairo, che ha il suo gruppo editoriale, dell'editore naturalmente della rete televisiva La 7, iniziarono a porre tutta una serie di questioni su cosa questo poteva voler dire rispetto al mondo dei soci troppi, nella verità, e di sicuro non efficienti, visti i risultati che hanno prodotto negli anni in RCS, che rispondevano dicendo: vabbè, sarà una gara aperta per il controllo proprietario, perché anche noi avanzeremo una nostra proposta insieme a Mediobanca. E quando poi i giornali hanno presentato questa vicenda, man mano che c'erano diverse fasi dell'offerta pubblica, e sembrava quasi che i vecchi soci automaticamente dovessero vincere, che Cairo non ce la facesse, eccetera eccetera, altre lettere sono arrivate dicendo: ma perché non parli e non parliamo del fatto che sembra che Cairo abbia un progetto di ristrutturazione industriale che ha una logica, dall'altra parte sembra solo invece una specie di autodifesa di un passato di cui non c'è molto da difendere. Ora la vicenda si è conclusa, come sapete, nel senso che la gara aperta per il controllo proprietario, che è un meccanismo che io difendo sempre, io vorrei questo stesso meccanismo applicato alle banche italiane invece di continuare a inventarci dei pastrocchi e di chiedere con il cappello teso in Europa di derogare dalle regole. Io penso che faccia bene sempre e comunque una gara aperta per il controllo proprietario, perché alloca meglio le risorse, stimola i gruppi che perdono a cambiare rapidamente, a darsi nuovi traguardi, obiettivi, organizzazioni, processi gestionali. Sa Dio se questo poi non è urgente nei gruppi editoriali più in generale, che continuano a essere concepiti da chi li controlla come strumenti di potere improprio invece che come aziende che devono fare utili. Quindi il risultato della gara aperta sapete qual è stato: alla fine ha vinto per alcuni a sorpresa Cairo, hanno perso i vecchi soci in Mediobanca, insieme a Cairo c'era anche Intesa, e a questo punto benissimo, vi serviamo la trasmissione con due esponenti con opinioni diverse che fanno parte sì del mondo giornalistico, ma uno fa parte del mondo giornalistico anche con una responsabilità pubblica, e io ringrazio entrambi di aver accettato questo invito, perché a parlare appunto di che cosa bisogna aspettarsi adesso per il futuro di RCS, uno, due, cosa significa per l'informazione italiana, tre, perché molti poi chiedono anche questo, cosa può voler significare anche per l'informazione politica italiana, cambia qualcosa per il governo Renzi o non Renzi. Innanzitutto ringrazio di aver accettato di parlarne Massimo Mucchetti, che sapete è stato a lungo al Corriere della Sera, anche vice direttore del Corriere della Sera, e con polemiche aperte anche con alcuni azionisti del Corriere della Sera stessa, e in questi anni è diventato presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato della Repubblica, e su questa vicenda ha scritto puntuti interventi, l'ultimo proprio ieri, il 19. Grazie di essere con noi, Massimo. Ciao, grazie, saluti a tutti. E il secondo interlocutore che è con noi, fondatore del Fatto Quotidiano, editorialista del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro. Grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Allora, tu sei stato sorpreso, Massimo? No, non ero stato sorpreso, l'avevo scritto fin dall'origine che la proposta di Cairo aveva tutto per essere una proposta vincente e alla fine ha vinto. Perché secondo te moltissimi invece, come era evidente, tifavano per i vecchi soci in Mediobanca? Beh, moltissimi nel mondo dei giornali e nell'area di governo. Evidentemente sui mercati non mi pare che fossero moltissimi. Esatto. Quindi tu dici nell'area di governo questo particolare che hai detto? Adesso siamo in aula, ci sono un po' di tumulti e quindi non so se si sente bene. No, no, si sente. Si sente, perfetto. Perché allora, per il governo era meglio i vecchi soci. Per il governo erano meglio i vecchi soci, comunque non era meglio un editore puro. Nell'area di governo si considera la 7 un'emittente d'opposizione, il che non è neanche vero, ma probabilmente è semplicemente un'emittente abbastanza indipendente che dà voce un po' a tutti. E perché la politica, secondo te, continua, malgrado i pessimi risultati decennali di editori non puri, cioè che non considerano la propria attività editoriale, il controllo di... Perché alla politica non interessa, alla politica non a tutta, anch'io sono un pezzo di politica, ma alla politica prevalente interessa avere dei media proni e non dei media liberi. Alla politica, così come i poteri economici, la stessa cosa. Molto chiaro. Faccio le stesse domande ad Antonio Padellaro. Sorpreso sì, no? Anche secondo te il governo preferiva i vecchi soci e Mediobanca? Ma intanto sorpreso non tanto, perché Cairo, a parte il fatto che ha una sua, un suo profilo di editore che quando mette nel mirino un obiettivo lo raggiunge, diciamo che la sua storia personale è abbastanza interessante da questo punto di vista. L'acquisizione della Sette, di cui parlava Massimo Mucchetti prima, è stata certamente una pietra miliare, perché ha dimostrato di poter risanare un'azienda televisiva che era messa molto male. Quindi poi la seconda cosa che mi ha convinto è l'appoggio di Intesa. Cioè, qui adesso io non voglio addentrarmi in campi che non sono i miei, ma ho l'impressione che ci sia stato prima di tutto uno scontro, una guerra tra due grossi gruppi finanziari, Intesa e Mediobanca, e che Intesa abbia espresso una potenza di fuoco e una determinazione che ha finito per stroncare le velleità di Mediobanca. Quindi questo aspetto non lo dimentichiamo. L'altra domanda che riguarda il governo, ma guarda, io ho una mia idea forse banale, ma io credo che i media, i giornali, la carta stampata in particolare, non siano più così determinanti per le fortune di un governo o di un partito, e lo dimostrano le ultime elezioni amministrative, dove effettivamente lo schieramento dei grandi giornali non era certamente favorevole ai 5 Stelle, che avendo poche truppe cartacee su cui contare, hanno finito per stravincere sia a Roma che a Torino. Io penso anche che se però, Antonio, è cosa diversa questa che hai detto, che è vera, è fattuale, cosa diversa da non credere che proprio i politici resti importantissimo avere, come dice Massimo Mucchetti prima, i giornali e la televisione il più possibile proni ai loro voleri. Ah, non c'è dubbio, sì, ma questo io non lo contesto assolutamente. L'altra domanda è questa: se parliamo del consenso che viene raccolto, per esempio in sede elettorale, se le persone si convincono a votare o appoggiare un partito o un governo leggendo i giornali. Mi dispiace, io lo so che è autolesionismo questo, però non ma è così. Non è più così. Sì. Però questo aspetto, Massimo, che adesso richiamava Padellaro, cioè il ruolo di Intesa rispetto ai vecchi soci di RCS, faceva parte anche essa della compagnia, è come se avesse detto a un certo punto ci siamo scocciati, qua non se ne viene a capo, il risanamento e il rilancio non c'è, cioè dopo Scott Iovane non si vede ancora la luce chissà per quanto tempo, ragazzi, ci vuole un cambio di marcia, e ha cambiato campo con Cairo. Tu ieri proprio hai scritto: beh, è stato l'ultimo atto di Bazzoli, forse il ciclo di Bazzoli in RCS sarà finito con questo, però è stata una cosa di peso, è così? Penso sia così, e vorrei ulteriormente precisare il pensiero che ha magistralmente espresso Antonio Padellaro con riferimento allo scontro fra Mediobanca e Intesa. Non è stato tanto uno scontro in cui le due banche hanno messo in campo risorse proprie, perché come voi sapete oggi i criteri, diciamo, di formazione dei bilanci bancari di fatto impediscono alle banche di assumere grandi partecipazioni nelle imprese, e possono farlo sul piano giuridico ma non sul piano dei bilanci. Invece quello che è successo è la capacità di convinzione degli azionisti, specialmente degli azionisti, investitori istituzionali americani, inglesi, comunque esteri, di appoggiare o diciamo Cairo. E questi non è che, come dire, prendono ordini, questi analizzano e vedono che cosa convince di più. Per loro RTS è una partita come tantissime altre. Posso farti una domanda su questo? C'è una cosa che mi ha sorpreso. Io ho stima per Bonomi e Investindustria, cioè l'ho visto e continuo a vederlo intervenire in aziende italiane, alcune che stanno bene, altre meno bene, però intervenire con una logica di solito che ha una certa rigore sia dal punto di vista finanziario e della valutazione dei mezzi necessari, sia della pianificazione del ritorno possibile reddituale delle risorse che impiega, e anche dal punto di vista industriale, cioè non è un finanziere puro, ma è uno. E aggiungo anche il passaggio che ha avuto alla Popolare di Milano, si vedeva che aveva una visione dentro, e infatti è rimbalzato. La cosa che mi ha sorpreso, su cui chiedo la tua opinione, Mucchetti, è come mai alla fine, di fronte al Cairo, che aveva un piano, un progetto editoriale, multimediale, insomma, si può criticare o meno, ma rispetto alla stasi di RCS, una roba che vuole mettere insieme lo sport, il Corriere, rivedere le presenze sull'estero, una televisione, parla anche di una radio, come mai questa volta Bonomi invece si è prestato a una cosa nella quale io, magari mi sbaglio, ma non ho visto la coerenza e la forza di solito dei suoi interventi? Sto parlando dal punto di vista proprio del piano, sia finanziario che industriale. Secondo te perché? Ma la spiegazione ce la deve dare Bonomi. Anch'io condivido il giudizio molto buono che tu hai espresso su Bonomi come operatore finanziario che come dire, porta a termine interessanti progetti industriali, dalla Ducati alla Aston Martin, no? Per dire. Ecco. E tuttavia in questo caso per me è stato incomprensibile il suo atteggiamento, l'ho anche scritto. So che la cosa non gli ha fatto piacere, me ne dispiace, ma penso che alla fine l'esito della vicenda lo possa convincere di aver commesso un errore. Lui poteva diventare l'azionista di maggioranza relativa, diciamo il punto di riferimento di RCS, quando glielo offrì Intesa, e rifiutò dicendo che la cosa non gli interessava. Intesa è il principale creditore, oltre che un azionista importante di RCS. Ed è ovviamente interessata soprattutto, date le dimensioni dell'investimento e del credito, a salvaguardare il credito, avendo un debitore solvibile, no? Con un buon piano industriale, con un buon management, eccetera, eccetera. E lui allora disse che sostanzialmente la cosa non gli interessava, e poi invece due mesi dopo ha accolto l'invito di Mediobanca. Due o tre mesi dopo. Ecco, l'invito di Mediobanca nasce soprattutto da considerazioni, direi alla base, di ruolo, di potere, di raggruppamenti finanziari verso altri, e non mi pare avesse molto davanti a sé lo sviluppo dell'azienda RCS, cosa che invece fatalmente è il chiodo fisso di Cairo, perché per Cairo RCS è tutto. La 7 è tutto, cioè è il suo mestiere, certo. È la sua fonte di successo, di guadagno oppure di disastro. Mentre per gli azionisti RCS, per tantissimi anni, non lo è stato. Sono peanuts, sono cose limitate, il cui interesse principale è il ritorno, diciamo così, politico. In certi tempi hanno anche svolto, come dire, una funzione positiva. Guarda, non bisogna dimenticare la storia, nemmeno demonizzare, però insomma è da tanti anni ormai che l'azionariato di RCS non aveva più senso. Come capita sovente nella vita, le cose che non hanno senso durano un po', ma non possono durare in eterno. Allora, adesso abbiamo l'interruzione sul minuto sul traffico e torniamo con i nostri due ospiti per continuare a ragionare su cosa vuol dire questo esito a Cairo, gruppo RCS, cosa aspettarsi per l'informazione e per la politica. Abbiamo visto alcune osservazioni sulla finanza italiana, la fine del salotto buono per capirci, sull'informazione ha contato per il mercato chi ha un piano e chi no, viva le operazioni aperte di controllo, quindi proprietario sul mercato e non le pastette, per chi avesse ancora dubbi. Adesso tentiamo di vedere cosa può voler dire per lo sviluppo dell'informazione in sé per sé, perché questo poi ancora non è chiaro. Tra un minuto. La la versione di Oscar. Eccoci tornati, cari ascoltatori. Stiamo parlando dell'esito che ha visto la vittoria di Cairo, l'editore della Sette, dei suoi settimanali, per il controllo, una gara aperta sul mercato per il controllo di RCS, Rizzoli Corriere della Sera. Sconfitta l'ala con Bonomi, Mediobanca e i vecchi soci. Abbiamo con noi Massimo Mucchetti, presidente della Commissione Industria, lungo anche vice direttore del Corriere della Sera, e Antonio Padellaro, fonditore editorialista del Fatto Quotidiano. Ricomincerei da Antonio Padellaro dicendo: anche per te, Antonio, è finita per sempre la storia del lungo epilogo, peraltro, perché la crisi è cominciata anni fa, dei salotti buoni, oppure no? Direi proprio di sì. Questa immagine dei salotti buoni è diventata, col passare del tempo, se riferita alle vicende del Corriere della Sera, piuttosto grottesca. Lo dico anche perché io sono entrato al Corriere nel 1971 e già la famiglia Crespi, salotto buono mi sembra, no? Era già in difficoltà enormi. Poi ricordiamo che il Corriere è passato attraverso la bufera della P2. La P2. Rizzoli, Angelo Rizzoli, non era forse un salotto buonissimo, anche perché c'erano Gelli, Ortolani, quella gente lì. Subito dopo è l'avvocato Agnelli che, in una famosa frase, disse di aver raccattato il Corriere per ridargli un minimo di dignità e anche di struttura economico-finanziaria. E poi siamo entrati nella stagione del salotto buono, che ha portato delle catastrofi immani, perché tutta la storia, per esempio, dell'investimento Recoleto, se non sbaglio, sì, tutta la vicenda dei soldi buttati in quel pozzo senza fine spagnolo è una macchia indelebile nella storia del Corriere, ed è stata anche l'origine dei disastri successivi. Quindi poi siamo arrivati poi all'uscita di Elkann, della famiglia di John Elkann, eccetera, che hanno preferito investire nell'operazione Repubblica. Quindi, diciamo, questo famoso salotto buono. Beh, che hanno preferito soprattutto investire nell'Economist, se posso dire. Hanno fatto proprio un'altra scelta di orizzonte. Hanno fatto un'altra scelta perché evidentemente anche loro in questo salotto buono vedevano la tappezzeria che cadeva a pezzi, le poltrone che si erano. In fondo è una conseguenza positiva di Marchionna, che ha spinto sin dal primo giorno, lo sappiamo tutti, perché, sì, perché la Fiat dicesse ai giornalini italiani, insomma, ma basta, ecco, con questo, no? Ecco, certo, io ho sempre però il dubbio che questa scelta di Elkann Marchionne rispondesse anche a una, probabilmente a un forte dubbio sulla possibilità diciamo, dell'azienda Corriere complessivamente vista di riprendersi alla grande. Cioè, lì c'è un discorso che riguarda la crisi dell'editoria complessiva. Insomma, non nascondiamoci che stiamo vivendo l'editoria, la carta stampata, ma anche l'online sta vivendo una stagione brutta, una stagione di problematica. Per esempio gli investimenti sull'online, che dovevano essere l'Eldorado, si stanno rivelando sì importanti, ma fino a un certo punto, perché non tutti i grandi siti di informazione riescono a pareggiare i conti con la pubblicità, e si sta pensando a investimenti sul notizie a pagamento, che però anche lì è c'è un grande punto interrogativo se l'utente, che è stato sempre abituato a considerare la rete gratis, no, questo concetto che è passato purtroppo ed è una rovina, cioè l'idea che tutto, se tu apri il computer, entri e tutto deve essere tutto gratis. Ecco, non so se questa valutazione abbia spinto la famiglia Elkann a disimpegnarsi, anche perché adesso Cairo ha chiesto tutte le deleghe, dovrà mettere il naso nei cassetti e nei conti del Corriere, eh? Attenzione, credo che lui già sappia, perché era già azionista e credo che si sia un po' informato, però io non lo so che cosa troverà, perché è evidente che il Corriere è una grandissima istituzione, è il più grande giornale italiano. Ha una straordinaria squadra di giornalisti, non stiamo qui a discuterne, così come la Gazzetta dello Sport, ma questo c'entra poco con un problema complessivo di costo del lavoro, e non credo che basterà chiamare il fornitore dei tramezzini per dirgli di tagliare un po', no? Io su questo non vi voglio annoiare. Io ho idea che bisogna cambiare strategicamente la maniera di procurarsi delle revenue, cioè delle entrate, se si è industria, esatto, della comunicazione multimediale. Quindi figuriamoci. E voglio ancora capire cosa fa a Washington Post Bezos, per esempio, cioè uno dei grandi miti. Voglio capire. Però detto questo, la domanda che giro nel rimbalzo tra voi a Mucchetti a questo punto: lo dobbiamo davvero a Marchionne? Uno, altrimenti sarebbe rimasto tutto bloccato. E poi soprattutto, quello che vedi tu rispetto al come dal Corriere, non proprio l'ultima delle testate italiane, può cambiare qualcosa in questo mondo stanco in cui gli editori dei grandi giornali per anni sono stati smentiti dai fatti. È evidente che bisogna cambiare la modalità del processo organizzativo e gestionale delle aziende editoriali. È molto complicato, ma secondo te cosa ti aspetti adesso da Cairo su questo per gli altri? Allora, io due domande. Quindi è stato Marchionne o no? Io credo che è vero che Marchionne non era mai stato interessato agli investimenti della Fiat, non della famiglia Agnelli. Non è irrilevante, sono i soldi degli azionisti, certo, terzi, certo, no? Nel Corriere, nella stessa stampa, no? Però è anche vero che Elkan è venuto via dopo che glielo chiedeva Marchionne, quanto perché i suoi disegni sul Corriere della Sera non sono andati a buon fine. Elkan voleva fondere la stampa con il secolo XIX e questo gli è stato possibile perché era un'operazione facile, e poi voleva fondere questi due giornali ormai a egemonia Fiat nella RCS, così da avere un gruppo di tre importanti quotidiani del nord e al tempo stesso di acquisire il controllo, la maggioranza relativa della RCS senza sborsare un euro. Già. Questo non va dimenticato. Quando questa operazione gli è stata fermata da alcuni soci di RCS, alcuni dei principali, ne cito due per dire che poi si sono trovati nella vicenda Cairo su sponde avverse, anzi tre, uno era lo stesso della Valle, ma soprattutto l'intesa allora ancora presieduta a tutti gli effetti da Bazzoli, e lo stesso la Pirelli di Tronchetti Provera, che per quanto amica storica della Fiat è fornitrice, no? Tuttavia un'azienda multinazionale che faceva i suoi conti e trovava non conveniente la proposta di Elkan, no? Tanto più che Elkan aveva espresso un management, Scott Iovane, e prima ancora per Riccone, quando la Fiat era, si faceva rappresentare da Montezemolo, che hanno fatto appunto operazioni veramente maldestre. Padellaro ha ricordato l'affare Recoletos in Spagna, io aggiungo 10 anni prima circa l'affare gruppo editoriale Fabbri, che la Fiat vendette, cioè il mondo Agnelli vendette all'RCS e gli fece un buco da 1.000 miliardi. Dandogli una fregatura storica. Una fregatura storica. No? Quindi voglio dire, quando vedi, poi l'avvocato Agnelli, come dire, era un uomo carismatico, diceva anche un sacco di cose imprecise. Lui non è che ha raccattato il Corriere che lui prese era uscito, risanato dall'amministrazione straordinaria, e di lì a 2 anni ebbe un valore che era oltre 10 volte quello fece che aveva un affarone pagato. L'avvocato voglio altro dire che... ecco, quindi diciamo, andiamo piano con le parole e stiamo attenti, questo per ristabilire un po', per aggiungere, diciamo, migliorare il profilo storico. Quanto invece a quello che può fare Cairo, io credo che Cairo, come qualsiasi editore professionale, la prima cosa che fa prendendo un gruppo come RCS Media Group è quello di sistemare i conti. E il tema costo del lavoro non è tanto e soltanto un tema dell'entità dello stipendio pro capite, quanto del fatto che nelle funzioni operative del gruppo RCS, che è più grande del Corriere, ci sono figure professionali che non hanno più senso. La direzione generale, diciamo i cosiddetti enti centrali della holding, raggruppano una quantità di persone impressionante, cioè è un esercito di tutti generali. E non servono, Cioè Cairo amministra, ha una idea molto, diciamo così, imprenditoriale e non burocratica della gestione, la gestirà lui con poche persone, diciamo con pochi dirigenti, un numero limitato di impiegati e poi gente che lavora sul campo. Allo stesso modo, dal punto di vista della raccolta della pubblicità, che è il business originario di Cairo, io credo che tra la Cairo Communication e l'RCS Pubblicità ci sia una pesante sovrapposizione. Una pesantissima, sono molto d'accordo con questo. Infatti, quindi in poco tempo io credo che Cairo potrà realizzare risparmi considerevoli. Va bene, vedremo poi cosa ne avverrà per gli altri gruppi editoriali. Qui anche, come sanno i nostri ascoltatori, ci sarà il gruppo editoriale dall'autunno, un nuovo piano industriale. Comunque, come vedete, una storia importante per l'Italia. Grazie ai nostri due ospiti. Continuate su Radio 24, appuntamento alle 8:15 domani mattina con me, Alessandro Milani, attenti a noi due.